Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. So Info affronta oggi una tematica comune a molte neomamme, quella del baby blues. È una lieve forma di malinconia temporanea e considerata non patologica che colpisce una donna su due. Alcune volte questa tristezza può diventare più intensa e duratura. Si parla allora di depressione post-parto, vera e propria, che può manifestarsi a vari livelli di gravità fino ad arrivare alla psicosi post-parto, la forma più grave. Sentiamo Gerardo Favaretto, direttore Dipartimento Salute Mentale dell'Ospedale di Treviso. Il baby blues è un fenomeno piuttosto comune, ci sono lavori che parlano anche del 70-80% delle donne. Dobbiamo immaginare e pensare, chi l'ha fatto lo sa benissimo, che il parto è un'evenienza molto importante, sconvolgente nella vita delle persone, senz'altro sconvolgente in positivo, perché cambia in maniera drastica la vita delle persone che hanno desiderato un figlio, ma anche degli aspetti di inquietudine, degli aspetti di sorpresa, degli aspetti di inaspettato, insieme a dei grandi cambiamenti fisici, pensiamo alla caduta ormonale, eccetera. È così che il secondo, terzo giorno, dopo il parto, l'umore delle donne può essere cambiato, più sensibile, più irritabile, avere appunto quella venatura di tristezza che è stata poi definita baby blues. Si manifesta secondo, terzo giorno, solitamente ha una durata limitata, quindi 48 ore, 70 ore, ed è fortemente influenzato dal fattore, dall'ambiente circostante, che può supportare e far superare questo momento senza particolari conseguenze. Le persone con baby blues hanno bisogno di aiuto? Sono persone malate? No, non lo sono in realtà. Tutti gli studi che sono stati fatti su questo fenomeno hanno dimostrato che appunto è un fenomeno, se non fisiologico, parafisiologico. Ribadisco, i grandi cambiamenti dell'epoca del parto fanno sì che probabilmente molte spiegazioni, sia da un punto di vista psicologico, sia da un punto di vista del cambiamento degli equilibri biologici, siano assolutamente applicabili, siano assolutamente verosimili. Quindi non va considerata di per sé una malattia, come tale non ha bisogno di passare un trattamento. C'è da dire che un ambiente supportivo, comprensivo e che fa capire alla neomamma che quello che è successo non è, come dire, nell'ordine appunto dell'aspettativa, non è costituzionale, che non è il suo fallimento come madre, il fatto di provare gli sentimenti di tristezza, è una cosa che può aiutare davvero. Questo è importante perché aiuta poi la mamma a ritrovare fiducia in se stessa, ogni mamma si sente spaventata da questo ruolo con questo bambino che arriva al mondo, che magari se è una vivipara non ha avuto esperienze precedenti, quindi si chiede se ce la farà, se sarà in grado, se quanto è difficile, se questo bambino dipenderà da lei. Quindi domande molto inquietanti, ma ripeto che sono nell'ordine fisiologico, se l'ambiente sostiene la mamma, questo di solito è sufficiente per superare questo momento di flessione dell'umore. Quando è che bisogna cominciare a preoccuparsi? Quando è che possiamo così dire, quali sono i segnali che possono far pensare che non ci troviamo più di fronte a una situazione parafisiologica, ma ci troviamo di fronte a qualcosa che potrebbe avere del patologico. E questo patologico è la depressione postpartum, cioè quel quadro depressivo che non ha una differenza sostanziale dagli episodi depressivi di qualsiasi altra persona, ma con la grandissima differenza che appunto avviene nell'epoca del dopo parto e che oltre alla mamma coinvolge il bambino. Beh, il primo segnale evidente è la persistenza, questa ideazione di non farsi, di indennità, di sentirsi inadeguata, e che magari è seguita da comportamenti di cura del bambino non adeguati, cioè il bambino non viene più seguito come ci si aspetterebbe, anzi la mamma tende a delegare, ad allontanarsi e ad avere momenti direttivi. Continua a sedere di pianto, continui momenti di chiusura e non confidarsi con l'esterno, insomma tutta una serie di situazioni. Questi sono segnali che fanno pensare che non ci troviamo di fronte a una situazione lieve, ma a qualcosa che sicuramente merita l'attenzione di qualcun altro. Come si fa a intervenire in questi casi? Chi bisogna rivolgersi? Sicuramente ci vuole l'aiuto, intanto una valutazione di uno specialista, un'ostetica del consultorio piuttosto che la psicologa del consultorio, aiuta a identificare quei casi a rischio. Una volta che i casi sono identificati, bisogna decidere, valutare se la situazione è lieve, e loro un supporto psicologico, anche di gruppo, può essere sufficiente e supportante per lo superamento del quadro, oppure se sono casi più pesanti, più significativi, nei quali va anche valutato eventualmente l'opportunità di rivolgersi a una psichiatra per un intervento anche tipo farmacologico. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di SoroPtimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.